Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questa seconda lezione di jazz, l'ultima del 2015. Per non rovinare l'impatto degli applausi che riceverò alla fine, vi faccio gli auguri già da adesso, di buone feste. Oggi faremo un vero e proprio viaggio nelle pieghe, proprio nel profondo, di uno dei brani musicali più suonati nel repertorio del jazz, quello che si direbbe uno standard, che ha avuto una vicenda musicale, perfino umana, del suo autore molto singolare, e attraverso la quale riusciremo anche a illuminare alcuni aspetti della storia del jazz, della storia della musica del XX secolo. Il brano si intitola King Porter Stomp, oggi provo a usare il cellulare come telecomando, quindi se eventualmente sentite dei rumori strani, ecco, dovrebbe funzionare, sì. King Porter Stomp fu scritto da un musicista che è noto come Jelly Roll Morton, il cui vero nome era Ferdinand Lamothe, era un cognome di origine francese, haitiana. La nonna di Morton era haitiana, poi la madre si sposò con una seconda volta con uno statunitense che si chiamava Mouton e lui cambiò il suo nome in Morton. Ferdinand, o Ferd come abitualmente si faceva chiamare, fu aggiunto addirittura in qualche caso sostituito il soprannome Jelly Roll, che vuol dire letteralmente rullo di gelatina, ma era anzitutto una vanteria sessuale, ecco, mettiamola così. Come vedete la lezione già si fa bollente. Questo personaggio, che ha avuto una vita avventurosa, era nato a New Orleans e già da adolescente praticamente ha cominciato a lasciare la città e ha iniziato una vita che è stata per tutto il tempo una vita da nomade. Ha viaggiato con compagnie di teatro, di vaudeville, ha fatto i mestieri più diversi, compresi alcuni mestieri poco nobili come il giocatore d'azzardo, il baro, anche il pappone, insomma, una vita tra il sottobosco, il teatro, la musica. Ha provato anche a fare il comico, ma non faceva minimamente ridere. In realtà questo individuo così pittoresco e così singolare era in realtà un genio della musica, aveva una musicalità eccezionale, una capacità tecnica pianistica formidabile, aveva comunque studiato con alcuni insegnanti a New Orleans, aveva una grande memoria musicale e soprattutto una fervida immaginazione compositiva. Questa immaginazione compositiva era basata soprattutto sul repertorio delle musiche nere di quegli anni, in particolare il ragtime. Tra l'altro, nonostante in questa foto appaia con una pelle un po' più scura, Morton in realtà era creolo, aveva una pelle chiara e, come tutti i creoli di New Orleans, sostanzialmente detestava i neri. Ha fatto di tutto nel corso della sua vita per non suonare con musicisti neri verso i quali non aveva una grande stima. Questo è un aspetto piuttosto imbarazzante, diciamo così, del mondo afroamericano. Va ricordato che dentro il mondo afroamericano esiste un fenomeno che si chiama ancora oggi, ahimè, che si chiama il colorism, per cui c'è una specie di gerarchia fra le persone, che ovviamente vede ai livelli più alti le persone con i capelli più chiari e che magari con la pelle più chiara, che magari si fanno anche lisciare i capelli, e in fondo le persone con la pelle più scura. Questo basta vederlo anche per esempio nel mondo della musica leggera: le grandi star come Beyoncé, per esempio, sono tutte con la pelle più chiara, e quelle che magari rivendicano una certa diversità, come ad esempio Esmeralda Spalding, tendono a enfatizzare i capelli afro. Ma questo è un altro discorso. Morton comunque rientrava in questa idea, in questa ideologia. Nel corso di queste sue peregrinazioni, Morton scrisse un sacco di musica. Scrisse un sacco di musica che rimase sostanzialmente inedita. Rimase inedita fino al 1923, quando finalmente trovò, come dire, un approdo stabile, Morton a Chicago, che era un punto d'attrazione di molti musicisti, soprattutto afroamericani di quegli anni, perché c'era molto lavoro. Arriva a Chicago e riesce a registrare un po' di musica. Siamo nel 1923, Morton ha 33 anni, comincia a registrare i suoi primi pezzi, i suoi primi dischi, e naturalmente che cosa registra? Quindi arriva tardi al disco, a 33 anni. Che cosa registra? Registra tutta la musica che aveva accumulato negli anni di vagabondaggio. Tra questi brani ce n'è uno che si chiama King Porter's Tomb. Il titolo nelle prime due lettere è un gioco di parole intorno a un pianista che Morton aveva incontrato, che si chiamava nel corso delle sue peregrinazioni, che si chiamava Porter King. Morton non era uno che si spendeva molto in elogi nei confronti degli altri, ma questo pianista doveva essere molto bravo, perché a un certo punto Morton, nonostante pensasse di essere il più grande pianista del mondo, e in un certo senso non sbagliava, vuole omaggiare questo pianista di cui non sappiamo assolutamente niente, il cui nome è solo rimasto immortalato nel titolo del pezzo di Morton, invertendo il nome e il cognome in questo gioco di parole, il re. Mentre la parola stomp ha a che fare con un certo tipo di ritmo legato alla danza, lo vedremo più tardi, che si sente soprattutto nell'ultima parte del pezzo, poi vi farò notare in quale punto. Morton probabilmente compose King Porter's Tomb intorno al 1915, ma affiora alla coscienza e alla conoscenza delle persone solamente nel 1923, quando viene registrata. King Porter's Tomb è uno dei tanti pezzi di Morton basati sulla struttura del ragtime, e qui adesso la facciamo difficile, qualcuno si pentirà di essere venuto alla lezione stamattina. Si voleva rilassare e invece gli tocca studiare. Cos'è la struttura del ragtime? La vedremo adesso durante l'ascolto, ma il concetto in realtà è molto semplice. Il ragtime funziona un po' come i valzer di Strauss o le mazurche, e cioè consiste di una serie di episodi, li possiamo chiamare temi, gli americani li chiamano strain, diciamo di episodi, tutti distinti, ben distinti fra di loro, perché uno sente chiaramente che si passa da un'idea melodica a un'altra ancora, che sono disposti in due tonalità diverse. È una cosa abbastanza semplice da sentire, come poi vedremo, poi vi spiegherò anche al pianoforte. In genere possono essere questi episodi 3 o 4. Questi 3 episodi sono disposti secondo un certo ordine che adesso vedremo. Difficilmente sono più di 4. E nascono, come da una tradizione orale in cui uno fa ballare le persone, allora suona un'idea, poi ne infila un'altra, poi ne mette un'altra ancora, poi per variare cambia tonalità e ne mette un'altra ancora e così via. In realtà questo tipo di struttura non viene solo da questa pratica, ma viene, come vi dicevo, dalla mazurka, dal valzer. Le bande per marcia hanno anche lo stesso andamento, tant'è vero che il ragtime ha un andamento della sinistra a mo' di marcia, cioè il pianista abitualmente suona cose del genere. Ok? Ho passato settimane a studiare questo passaggio nel tentativo di farlo correttamente. A questo andamento di marcia sotto si sovrappone sopra un andamento ritmico che invece è strettamente connesso alle tradizioni ritmiche dell'Africa occidentale. Sono quindi come due livelli, uno di accompagnamento e uno ritmico melodico sopra. Morton parte da questo modello e costruisce una trama sonora molto intricata, molto complessa, che adesso ascolteremo, che è quella di King Porter's Tomb, uno dei tanti pezzi scritti seguendo questo modello. È una trama complessa che non prevede molta improvvisazione, in realtà sono proprio composizioni come se fosse un pezzo di Schubert, che vi devo dire, un'opera breve di Schubert, con questo andamento ritmico. Rispetto al ragtime, la struttura ritmica, la libertà esecutiva e anche il relax, lo swing con cui vengono suonati, sono decisamente superiori. Noi adesso ascoltiamo King Porter's Tomb nella registrazione che Morton ne fece nel 1923. Il suono è quello che è, dovete pensare che all'epoca le registrazioni discografiche erano basate su una tecnologia piuttosto primitiva, e nel caso però in cui l'artista fosse stato nero, come nel caso era, anche se era creolo, era considerato nero, Morton, il materiale che veniva usato per questi musicisti era molto molto scadente. Un artista bianco avrebbe avuto accesso a ben altri mezzi. Morton era un musicista sconosciuto che regista per una piccola casa discografica come la Paramount o la Gannett, sono varie case discografiche che lo registrano in quel periodo, che usano un materiale scarso, tecnici poco bravi, e il risultato purtroppo è questo. Ma noi lavoriamo un po' di fantasia, immaginiamo che Morton sia lì al pianoforte a suonare King Porter Stomp. Mentre lo ascoltiamo vedrete la struttura del brano in modo da imparare a riconoscere i singoli episodi. La coda è di sole due battute, non di 16, poi lo correggeremo. Allora, qualche piccola indicazione, senza naturalmente quei numeretti che vedete, le tonalità, adesso ve le spiego, quei numeretti che vedete, non è, chi non sa contare le battute non è assolutamente importante, serve intuitivamente per far capire che ogni segmento ha la stessa durata degli altri, quindi vedete sono sempre lo stesso numero, vi chiedo scusa per quell'errore, la coda sono solo due battute. Impariamo a riconoscere quando si passa dal tema A al tema B. Il tema A appunto fa così, ok? Ed è questo. Il tema B suona così, ok? Anzi, lo fa più acuto. E inizia con questa tonalità minore e poi conclude in La bemolle. La transizione serve ad andare, quella di quattro battute, a una cosa quasi da banda. E si va in un'altra tonalità, che è questa. Ok, dentro questa nuova tonalità c'è in particolare l'episodio C2, che è molto interessante perché l'andamento è quello di un ragtime. Ok? Ma la melodia che Morton scrive è una specie di richiamo blues. Sembra quasi cantata. E c'è una pausa. Tant'è vero che quando un anno dopo Morton e il trombettista King Oliver la suonano insieme, Oliver usa la sordina e fa proprio un richiamo blues. Questo è il punto. Morton prova a farla col piano, questa idea blues. Oliver. Ora mette la sordina. Mescolare il blues con il ragtime è una delle cose da cui ha avuto origine il jazz. Morton, che si autoproclamava inventore del jazz, un'esagerazione, ma con un fondamento di verità, era consapevole che il jazz nasceva proprio dalla mescolanza di musiche diverse, in questo caso un andamento di marcia, la struttura del ragtime e anche un tocco di quel blues contadino, rurale, che si ascoltava nelle campagne intorno a New Orleans. Però questa è un'operazione da intellettuale in un certo senso, è una composizione, è un pezzo scritto nota per nota. Tant'è vero che Morton lo pubblica come spartito e più tardi lo registra appunto con King Oliver e lui stesso, Jelly Roll Morton, nel 1924. Lo spartito, che adesso tra un secondo vedremo, funzionava così. Il compositore in genere porta il pezzo dall'editore musicale. Stiamo parlando di un'epoca in cui gli editori musicali erano più potenti delle case discografiche. L'industria discografica era ancora, come dire, in sviluppo, non era ancora dominante come per esempio lo è stata più tardi. Il compositore portava il suo pezzo di musica e diceva: vorrei pubblicare questo. L'editore dice: ah, bello, interessante, lo pubblichiamo. A quel punto l'accordo economico poteva essere di due tipi, e qui è cruciale lo snodo. Uno, io ti do un forfè, ti do $50, no, facciamo 60, no, si contratta, alla fine ti do $40, mettiamo, per questo pezzo di carta. Io, mi compositore, mi intasco i $40, me ne torno a casa contento e finisce lì. Poi, se l'editore con quel pezzo ci fa $2 o 10.000, è un problema dell'editore. Io ho intascato i 40, un forfè e finisce lì. Oppure si fa un accordo sui diritti, sulle royalties, cioè mettiamo che ogni copia che vendi mi dai $1. Quindi se ne venderò 10.000 farò $10.000, se ne vendo 10 prenderò $10. La maggior parte dei musicisti neri optava per il forfè, per due motivi sostanzialmente. Uno, una certa ingenuità nel non conoscere i meccanismi reali dell'economia, delle case editrici. Il secondo motivo è che molti di questi, anche se non erano ingenui, erano veramente dei nomadi. Cioè il problema era: va bene, in futuro mi darai dei soldi, ma io dove sarò in futuro? Non facevano una vita borghese per cui avevano una casa, una famiglia, un appartamento, un indirizzo. Personaggi come Morton erano veramente degli sradicati, per cui oggi sono a Chicago, domani chissà dove, in quale parte degli Stati Uniti sarò. E allora spesso meglio i soldi subito che mi dai e basta. E poi stiamo parlando di musica leggera, musica da ballo. Chi può immaginare che questo pezzo un giorno sarà oggetto di una conferenza di Stefano Zenni all'Auditorium a Roma? Ma ve l'immaginate, pura fantascienza. E allora, i soldi subito. Il brano viene pubblicato e ha una certa fortuna perché l'editore spinge, contatta le case discografiche perché il business si fa vendendo gli spartiti, non i dischi all'epoca. Quindi l'editore, per far conoscere il pezzo, chiede a vari musicisti di incidere, a case discografiche, di incidere quello spartito, così che si possa vendere lo spartito. Se noi ascoltiamo la versione di King Oliver e Jelly Roll Morton, che per inciso storicamente è il primo duetto mai registrato nella storia del jazz, cornetta e pianoforte, tutte e due di New Orleans, ma i due non si amavano, né si, cioè hanno fatto questa operazione di economica in studio per far conoscere il pezzo. Se noi ascoltiamo il brano guardando lo spartito, anche chi di voi non conosce la musica, potrà facilmente apprezzare il fatto che tutto quello che fanno è praticamente scritto. Il mito dell'improvvisazione scricchiolerà durante questa esecuzione. Questo è lo spartito, è una ristampa successiva che elenca anche tutte le registrazioni che sono state fatte nel frattempo del pezzo. Scusate, una cosa importante, è chiaro che lo spartito è semplificato rispetto alla realtà musicale. È chiaro, devo vendere lo spartito, non lo faccio difficile. Cerco di metterci le cose essenziali in modo che chiunque lo possa suonare. Parte, fa la parte scritta, la tromba no. Difficile questa parte, quindi fa una cosa semplificata. La transizione, interlude. Qui la suona la lettera. Ecco qui la parola stomp, questa idea qui. Blues. Sorprendente? Praticamente quasi tutto quello che fanno è scritto e quello che non è scritto è una piccola variazione estemporanea di quello che è scritto sullo spartito. Questo tra l'altro ci spiega che anche personaggi come per esempio King Oliver la musica la leggevano, perché quando hanno registrato questo pezzo sicuramente avevano lo sguardo incollato sullo spartito esattamente come abbiamo fatto noi adesso. Il pezzo ebbe una qualche fortuna perché fu pubblicato, i pezzi avevano fortuna nel jazz in quegli anni se usciva lo spartito. Oggi col mito dell'improvvisazione che abbiamo ci sembra curiosa questa cosa, in realtà era lo spartito che faceva la differenza e siccome l'editore voleva farci dei soldi, aveva pagato a Morton un forfè, decide di spingere il pezzo. Esistono varie registrazioni più o meno buone di quel periodo, lo stesso Morton lo registra più volte, qui ne abbiamo sentito due esempi ma ce ne sono almeno altri due fino al 1926. finché questo brano non finisce nelle mani di un signore molto molto importante. Questo signore è un compositore, arrangiatore e pianista della Georgia che si chiama Fletcher Henderson, nato nel 1897, scomparirà nel 1952. Henderson avrebbe dovuto fare il chimico, pensate un po', poi è arrivato a New York dalla Georgia, si è entrato nel giro musicale e l'università se l'è persa per la strada. Riesce a fondare un'orchestra che rapidamente, tra il 24 e il 25, diventa la più importante orchestra nera di tutti gli Stati Uniti, il che nel jazz vuol dire del mondo. È un'orchestra molto, come dire, lo vedete anche dall'abbigliamento, di alto livello, di gran classe, che riunisce i migliori musicisti neri di New York, gente che sapeva fare di tutto, leggeva, poteva suonare musica per il teatro, poteva improvvisare il blues, aveva una competenza musicale molto vasta e avevano lavorato insieme a un arrangiatore che si chiamava Don Redman, che è stato, insieme a Henderson, il vero e proprio inventore, in un certo senso architetto, della moderna orchestra jazz. Ma Don Redman nel 1926 lascia l'orchestra per andare a lavorare altrove, Henderson si ritrova senza la firma principale dei suoi pezzi e in alcuni casi si rivolge a un tipo di pratica tipicamente jazz, che è quella del head arrangement, cioè l'arrangiamento orale, a memoria. Funziona in maniera molto semplice, qui vedo tra in platea alcuni amici musicisti, lo sanno bene come funzionano. Durante le prove ognuno tira fuori un'idea, si dice facciamo King Porter Stomp. Allora ognuno tira fuori un'idea, il trombettista dirà ma noi le trombe faremo questa frase, i sassofoni diranno noi invece ci accompagneremo con quest'altra frase. Ci si accorda sul momento, non c'è niente di scritto, ognuno sa il ruolo che deve ricoprire, si dice più o meno chi farà l'assolo in quale punto, e il pezzo è fatto. È un accordo orale, verbale, che viene mandato a memoria, head arrangement, arrangiamento a memoria. Non esiste uno spartito e il risultato è il frutto di un lavorio collettivo. Quando prese in mano King Porter Stomp, Fletcher Henderson decise di lavorare su un head arrangement, che probabilmente fu in buona parte frutto delle idee del sassofonista tenore dell'orchestra, un grande musicista emergente che si chiamava Coleman Hawkins. Noi adesso ascolteremo la versione lead arrangement che Henderson registrò nel 1938 di 28, chiedo scusa, nel 1928, questa era l'orchestra in una foto un po' precedente, c'è anche Louis Armstrong al centro che poi andrà via. Coleman Hawkins è il primo sassofono a sinistra, a fianco al sax basso gigantesco, all'epoca aveva 26 anni, no, di meno, ne aveva 24. Lì su vedete qual è la struttura originale di King Porter Stomp. Noi adesso ascolteremo l'head arrangement dell'orchestra di Henderson. Noterete che ci sono un sacco di cambiamenti. Per esempio, l'introduzione diventa più lunga, di 8 battute invece che di 4, non fanno i temi. Per esempio, al posto di A, sapete che fanno? C'è un assolo di tromba, di Bobby Stark. Al posto di B non c'è il tema, c'è un assolo di sax. Cioè, i temi non gli interessano, interessa questa struttura per improvvisarci sopra. Vediamo in che modo. Bobby Stark. Non c'è il tema, l'assolo. E poi lo fanno una volta sola. Niente tema. La transizione di 4 battute. E fanno il tema qui. (Susurra) bassista Joe Smith. Buster Bailey. Il trombonista Jimmy Harrison. Vedete, ci sono diverse novità. Vi dicevo, intanto non fanno il tema A e il tema B. Invece fanno una sfilza di C. Prima di arrivare alla novità della botte risposta finale, chiediamoci, ma perché fanno una sfilza di C? Allora, nel frattempo, tra la registrazione che abbiamo sentito di Morton e questa, è successa una cosa importante nel jazz. È arrivata la stella di Louis Armstrong. Louis Armstrong in quegli anni sta spostando con la forza della sua innovazione il jazz da una musica collettiva o molto composta come nel caso di Morton a una musica solistica in cui conta l'inventiva originale del singolo. Allora, affrontando un pezzo come vedete sopra molto complesso e articolato, i musicisti dell'orchestra di Henderson sapete cosa fanno? Lo semplificano, lo sfoltiscono. E lo usano come un canovaccio per fare che? Per improvvisarci, per fare tanti assoli sopra. In particolare individuano nel tema C un'idea molto interessante che Morton aveva già introdotto, ricordiamoci forse già nel 1915, una specie di loop. Questo loop è ideale per improvvisare, crea un movimento perpetuo, una spinta in avanti, il solista si può lasciare andare molto liberamente. E c'è un altro vantaggio che in un disco da due minuti e mezzo non si percepisce. Siccome questa musica, ricordiamocelo, è musica da ballo, serve a far ballare la gente, io su questa cosa ci, ma posso andare avanti per 10-15 minuti. E intanto la gente balla, non ho bisogno di pagare un arrangiatore che mi scrive la partitura. L'accompagnamento dei fiati l'abbiamo deciso oralmente, i solisti si succedono uno dopo l'altro, la gente balla ed è contenta. Siamo per esempio al Connie's Inn, un locale dove Henderson suonerà questo pezzo un sacco di volte. La gente è contenta, balla e i musicisti hanno modo di esprimersi liberamente. In questo tipo di arrangiamento vedete la transizione dal mondo compositivo del ragtime al jazz solistico, che deve, essendo solistico, semplificare la struttura. E Henderson, come vi dicevo, individua in Morton un'idea nuova, fresca, interessante, questo loop armonico che consente di andare avanti a piacimento. Laddove invece c'è la struttura del tema A e B, decidono proprio di non farlo il tema, c'è il solista che suona. Per inciso, se non avete mai sentito nominare quel trombettista Bobby Starr, che è stato un grande trombettista degli anni 20, che purtroppo non ha fatto una grande carriera perché poi l'alcol se l'è inghiottito in un buco nero. Il botte e risposta finale, e qui è un'idea, come dire, è un misto delle idee di Morton e Henderson. Morton aveva individuato questa idea, vi ricordate, quella blues. Questo riff, questo è il termine tecnico, una breve frase che si ripete, è un'idea di origine africana, l'idea della breve frase che si ripete, Come vedete, lascia un vuoto. Questo vuoto Henderson decide di, Henderson o chi ha avuto l'idea, forse Coleman Hawkins, di riempirlo con una risposta. In particolare gli ottoni fanno e le ance, i clarinetti per la precisione, rispondono. Ok? A botta e risposta. Questo tipo di approccio, individuato nel 1928, diventerà poi l'approccio standard di tutte le orchestre jazz di 7, 8, 10 anni dopo. È un'idea che Henderson, o chi per lui, ha a partire da questa intuizione di Morton, il riff finale, lo stomp, che fa ballare con più energia. Ecco il titolo, King Porter Stomp. Nel 1900... Ecco, scusate, faccio sentire. Botta e risposta. Poi con una variante. La coda è quella scritta da Morton. Tra l'altro finiscono con un accordo blues. Dicevo che passano 4 anni e nel frattempo, ne abbiamo parlato, se non ricordo male, nel secondo ciclo delle lezioni di jazz, siccome sono sicuro che tutti voi c'eravate, non riprendo quell'argomento, è una lezione che è passata alla storia, quindi... tutti voi conoscete l'argomento, sono gli anni in cui emerge questa nuova danza, il Lindy Hop, che è praticamente identica, cioè, o meglio, il rock and roll di 30 anni dopo è identico al Lindy Hop, non è altro che il Lindy Hop ballato dai bianchi, lo stesso tipo di passi. Il Lindy Hop ha bisogno di una sezione ritmica orchestrale che cammini, molto più vivace di quella che avete sentito un po' trascinata col basso tuba dell'orchestra di Henderson. Spinge i musicisti a scegliere il contrabbasso invece del basso tuba, la chitarra invece del banjo, un approccio più rapido, più energico, ma anche più fluido, più liscio, uno swing più lineare, perché è un ballo di coppia estremamente acrobatico che ha bisogno di una musica che sottocorre e scorre, senza intoppi. E gli intoppi sono anche avere 2 temi, 3 temi, la modulazione, dal re bemolle alla bemolle, la transizione. Insomma, la musica si semplifica. E il riff diventa importantissimo. Perché? Perché tu suoni questo riff continuamente, la gente balla in maniera sempre più accesa, sempre più accalorata, sempre più eccitata. Quindi qui vediamo il caso in cui il modo di ballare delle persone, in particolare dei neri di Harlem, che sono gli inventori dell'indy hop, influenza la scrittura musicale. Non a caso, nel 1932, Fletcher Henderson torna con una nuova orchestra a registrare King Porter Stomp. Con questa nuova orchestra, questa era sempre la struttura originale, Henderson pubblica questo disco con tra l'altro il titolo New King Porter Stomp, perché l'arrangiamento è un po' diverso, come sentiremo adesso, ma sentirete che c'è un abisso con la versione precedente, a parte che i musicisti non sono gli stessi. Ma c'è un abisso perché c'è il contrabbasso, tutto è molto più veloce, è una versione bellissima, ci sono Bobby Stark e Coleman Hawkins ancora che fanno l'assolo, ma soprattutto vedrete una grossa differenza, semplificano ancora di più la struttura, addirittura il tema B viene completamente abolito e ci sono una sfilza di C, cioè non esiste più la struttura multitematica, complessa, articolata di Morton. Qui bisogna far ballare la gente e il pezzo viene super semplificato. Scompare anche il tema C, quello che veniva fatto, diventa un assolo di Coleman Hawkins. Se alziamo un po' il volume, grazie. Fanno una A, vanno alla transizione subito. Niente tema. tema è sotto, i sax lo fanno. Manca un episodio, adesso fanno il botta e risposta. Questo è lo stop, botta e risposta. E finiscono con questo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, un finale nuovo che scrive Anderson, che non c'è nella versione di Morton. In questa versione che avete sentito così frenetica, così trascinante, Anderson decide di aggiungere proprio una parte scritta che è questo finale quasi da fanfara, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, con cui chiudere questa cavalcata. Già il colpo d'occhio vi dice tutto, sono spariti i temi, è sparita la complessità, è sparito B, non c'è più niente, ci sono solamente una serie di C, quel loop ipnotico e trascinante su cui infilare una serie di assoli. Tra le cose degne di menzione c'è l'assolo di trombone di Sandy Williams. In quel punto, nella versione del 28, c'era Jimmy Harrison. Jimmy Harrison è stato uno dei padri del trombone jazz. Purtroppo morì di tubercolosi a poco più di 30 anni e non ha riuscito a portare avanti, come dire, le sue innovazioni. Il trombonista Sandy Williams, quando va a registrare questo King Porter Stomp, sapete cosa fa? Rifà lo stesso identico assolo dello scomparso Jimmy Harrison nel disco del 28. Vi faccio sentire com'era, è un omaggio all'amico scomparso. Questo è Harrison. Questo è Sandy Williams. Stesso assolo. Più rapido. Come vedete, quello che ci può sembrare improvvisato in realtà è rifare l'assolo di qualcun altro immortalato in un disco precedente come una specie di omaggio all'amico scomparso. Le cose per Anderson comunque non andarono bene. Nella Grande Depressione lui si trovò come dire, poco attrezzato ad affrontare un momento di crisi che altri invece riuscirono a affrontare meglio, per esempio Duke Ellington o Cab Calloway o Chick Webb, e praticamente nel 1934 Henderson fu costretto a sciogliere l'orchestra, che tra l'altro stava nel momento di massimo splendore musicale, quello che coincise col peggior momento economico dell'orchestra, divenne il massimo momento musicale dell'orchestra. Henderson si ritrovò disoccupato e aveva fra i suoi amici un impresario miliardario bianco, John Hammond, che era anche amico di un giovane clarinettista di Chicago che dirigeva una orchestra in piena ascesa. Questo giovane clarinettista ebreo si chiamava Benny Goodman. Goodman, o meglio, John Hammond, nel 1935 fece incontrare l'arrangiatore afroamericano Fletcher Henderson e l'orchestra di Goodman. Goodman faceva una musica molto commerciale all'epoca, proprio da ballo, di quelle più sweet, più dolci, più tradizionali. Hammond era convinto che se Goodman avesse accolto il repertorio di Henderson nella sua orchestra, l'orchestra avrebbe avuto una spinta in più e un nuovo successo. Aveva ragione, funzionò così. Questa orchestra bianca, improvvisamente, nell'estate del 1935, mentre l'America usciva dalla Grande Depressione, proprio in coincidenza con il faticoso riemergere dalla crisi economica, questa orchestra acquisì un nuovo pubblico, un nuovo successo, con una musica più dinamica. Questa musica più dinamica non la scriveva Goodman, la scriveva un arrangiatore afroamericano, Fletcher Henderson. Un po' per risparmiare anche, evidentemente un po' per così, per approfittarne, Henderson all'inizio vendette degli arrangiamenti della sua vecchia orchestra, quella che aveva sciolto. E uno di questi era, indovinate un po', King Porter Stomp. Solo che King Porter Stomp in questo caso non è, diciamo, in una versione head arrangement. Probabilmente Henderson l'ha tirato giù, quella cosa che era tutta un'invenzione verbale, orale, che abbiamo sentito nei dischi precedenti, fu trascritta, data all'orchestra di Benny Goodman, e nel luglio del 35 l'orchestra la suona. È molto affascinante sentire la versione dell'orchestra di Goodman, perché in genere nel jazz siamo ossessionati da questa idea che tutto è estemporaneo, è tutta improvvisazione, tutto molto individuale, ognuno ci mette le sue idee. Qui invece siamo in una situazione molto simile alla musica classica, cioè abbiamo due partiture. Cioè, scusate, volevo dire il contrario. Una partitura e due esecuzioni diverse. Una è quella del 32 che avete appena sentito, di Henderson. La stessa partitura adesso viene suonata dall'orchestra di Benny Goodman. Il tempo è diverso, il fraseggio è diverso. E la differenza che ci può essere, non lo so, tra Abbado e Muti. Cioè, è un approccio completamente differente. I solisti ovviamente sono diversi, ci sono dei piccoli tocchi che Henderson, avendo buttato giù la partitura, aggiunge, quelli rivedremo in un secondo momento, ma intanto voglio farvi sentire la versione del 1935 di Benny Goodman. Questo disco avrà un successo enorme. Bunny Berryman. Il tempo è più lento, ma più preciso. Anche più oscillante. Saltano qui. Come nella versione del 28, fanno il tema. Thank you. nuovo il trombettista Buddy Berrigan. Trombonista Ray Ballard. Idea nuova, scritta da Henderson. Stessa partitura con qualche dettaglio che cambia, approccio di fraseggio, ritmo, dinamica, completamente diversi. Perché un'orchestra bianca? Sì e no, perché evidentemente si rivolgevano anche a un pubblico che ballava in maniera diversa. I bianchi si stavano adesso abituando ai nuovi passi dell'indie hop, parliamo di ragazzi di 18, 19, 20 anni che ballavano questi nuovi passi che ad Harlem si ballavano da anni, quindi evidentemente Goodman ha deciso di un approccio più rilassato, più morbido, meno virtuosistico, ecco, di quello molto rapido del 1932. Noi siamo, direi, quasi certi, conoscendo le abitudini di Goodman, che Henderson gli ha consegnato la partitura in questo modo. E poi Goodman ha deciso, durante le prove, a che velocità andava eseguita e come fraseggiare tutto questo. Eppure, non sempre la suonavano così lenta. La suonavano anche molto più rapida. Per esempio, noi abbiamo delle registrazioni, vi faccio risentire la parte del riff, scusate, prima di andare avanti, questa idea nuova, è una cosa scritta da Henderson che non sta nello spartito di Jelly Roll Morton, né sta nelle sue versioni precedenti. Questa è un'idea nuova che aggiunge sulla A. No, l'abbiamo detto il riff, l'abbiamo già fatto sentire, no? Vado avanti. Sentite questa versione radiofonica del 1938. Corrono come un treno. Non c'è più Buddy Berrigan, c'è Ziggy Ellman alla tromba. È una cosa pazzesca. Questo vi faccio sentire come la suonavano per un pubblico vero che ballava nel 38. Spesso questa cosa succede nel jazz, cioè che brani che vengono suonati lentamente o a tempo medio in studio dal vivo diventano molto rapidi. Questo è per esempio una regola nei dischi di Miles Davis. Sentite come la fanno, è lo stesso arrangiamento, eh? Di nuovo, mettiamoci in un'ottica da musica classica. I musicisti hanno davanti le stesse note che avevano quelli di Henderson e che avevano nel 1935. 3 anni dopo, dal vivo, la suonano in questo modo. Sì, chi è? Il pezzo di Morton faceva ballare, quello di Goodman a questa velocità fa ballare, e Henderson non finisce di fare piccole rifiniture, come per esempio quando fa il riff H, quello Henderson, quello che aveva introdotto già nella versione del 35 con l'aggiunta dei tromboni. Se faccio sentire, 35. Sentite come lo fraseggiano tutto staccato, preciso. E poi, invece, e aggiungono i tromboni. Più blues. Eccetera. Sì, l'effetto treno ve l'ho già fatto notare, ma questa è la versione del 35. Che avete quindi un pezzo che fa ballare l'America bianca, che ha un grande successo, dietro c'è un arrangiatore nero e dietro ancora c'è un musicista che l'aveva scritta praticamente 20 anni prima, una cosa che nessuno sapeva in quel momento. Che fine avesse fatto Morton nel frattempo lo vediamo tra breve. King Porter Stomp diventa un grande successo dell'era dello swing, diventa un pezzo che tutte le orchestre suonano, spesso rifacendo l'assolo di Henderson pari pari. Henderson vede ovviamente le sue tasche per una volta meritatamente in un certo senso gonfiarsi per i diritti, perché vende continuamente questo arrangiamento. Voglio farvene sentire un altro con un approccio completamente diverso, è quello dell'orchestra di Count Basie che nell'estate del 38 suonava in un club, quello lì piccolissimo, vedete sono tutti assiepati sul palco, e il Famous Door, loro non suonano per far ballare la gente, cioè di solito sì, ma in questa occasione no, sono in un piccolo club, quindi l'impatto della musica è molto forte. Vi faccio sentire come suonano lo stesso arrangiamento, sempre in quest'ottica quasi da musica classica. La partitura è identica a quella che avete appena sentito. Siamo sempre nel 38. L'orchestra ha un'altra matrice stilistica, vengono dal sud-ovest, da Kansas City. I solisti ve li indicherò strada facendo e il modo di suonare King Porter Stomp è questo. La voce che sentite all'inizio è quella dell'annunciatore radiofonico, perché il Famous Door aveva i microfoni della radio e quindi gli americani potevano sentire questa musica direttamente a casa. And dancing gets underway tonight with a toast to royalty as Count Basie and his orchestra play King Porter's song. Per certi versi più viscerale, un po' più grezza nell'esecuzione, ma molto potente, molto viscerale, quella di Count Basie. Ripeto, abbiamo tantissime versioni, ora qui non mi dilungo, però ce n'è una poco conosciuta che vorrei farvi ascoltare per chiudere questo discorso sugli anni 30, perché poi la storia non finisce qui, anzi, la parte più sorprendente deve ancora arrivare, ed è la versione di un'orchestra poco conosciuta oggi, ma all'epoca abbastanza popolare, quella di Teddy Hill, che aveva tra l'altro un club ad Harlem frequentato da giovani musicisti con delle nuove idee, tra cui Dizzy Gillespie, per esempio, frequentava il suo club. E Teddy Hill registra una curiosa versione di King Porter Stomp nel 1938, che non è l'arrangiamento di Anderson. È un fatto raro. Qualcuno, non sappiamo bene chi, ho fatto una piccola ricerca, non sono riuscito a trovare il nome dell'arrangiatore, ha riscritto King Porter Stomp. Grosso modo il canovaccio è quello dell'arrangiamento di Anderson, quindi non troviamo il tema B, diciamo è come la versione del 1932 di Anderson, ma c'è una parte finale particolarmente elaborata e tra i solisti troverete una giovane stella destinata a un grande futuro. Il primo solista invece è Roy Eldridge, che è l'ispiratore di questa stella, in un certo senso. Questo è l'arrangiamento del 38 di King Porter Stomp, sensibilmente diverso da quelli che abbiamo ascoltato fin qui. Diversa l'introduzione. Thank you. non fanno il tema. Tra i migliori solisti del jazz degli anni 30. Giovanissimo, 24 anni. Ma invece di finirla qui, questo è un episodio nuovo. Fantastica esecuzione, bellissimo disco, dovremmo stare tutti qui a ballarlo, non stare lì così come mummie, diciamo, ad ascoltarlo. Però c'è una domanda che ci dobbiamo fare. Quando abbiamo sentito l'annunciatore radiofonico, no? Dice Count Basie, King Porter Stomp, nessuno ha detto il nome di Morton. Che fine ha fatto Jelly Roll Morton? Qui c'è tutta l'America che sta ballando al ritmo di King Porter Stomp, il suo pezzo del 1915. E lui riceve dei soldi per questo? Prima risposta, no, perché lui nel 1923 aveva venduto lo spartito per un forfè, una manciata di dollari, poteva immaginare che sarebbe andato a finire che tutta l'America ballava al ritmo di un suo pezzo, mediato naturalmente dall'orchestra di Anderson, dalle idee di Anderson, poteva immaginare che i bianchi, che tutta l'America bianca avrebbe ballato la versione di Benny Goodman? Non poteva certo immaginarlo, quello è un pezzo di passaggio destinato ad avere la fama di qualche mese e basta. E dov'è Morton? Morton è stato in questo momento spazzato via dalla storia. È stato spazzato via dalla storia perché durante la Grande Depressione il suo stile musicale è passato di moda, per una serie di vicissitudini personali non riesce a stare al passo coi tempi e finisce ingoiato nell'anonimato. Sparisce dall'orizzonte dei critici, dei musicisti, nessuno sa più neanche che esiste, chissà dove sta. Ma forse già chiedersi chissà dove sta vuol dire sapere che c'è da qualche parte. È sparito nel nulla, nessuno lo nomina. Noi sappiamo che sta a Washington, in un fetente piccolo club gestito da lui stesso, dove suona il pianoforte in condizioni piuttosto miserabili, peraltro anche pericolose perché di lì a poco un cliente ubriaco gli dà una coltellata che lo ferisce a un polmone e che nel giro di 4 anni, nel 41, lo porta alla morte. Insomma, in una situazione piuttosto brutta. C'è qualche critico che si ricorda di lui, per esempio Marshall Stearns scrive una storia del jazz a puntate su Downbeat in cui l'ultima puntata dice sì, il jazz arriva fino agli anni 30, ma dobbiamo ricordarci che c'è un signore che si chiamava Jelly Roll Morton, chissà dove sta, che però ha fatto delle cose importanti agli inizi, anzi molte cose che si fanno oggi hanno a che fare con quello. Morton non è fuori dal mondo, ascolta la radio e un giorno alla radio sente un'intervista a William Christopher Handy, il cosiddetto father of the blues, padre del blues, non l'aveva certo inventato lui ma l'aveva reso popolare attraverso i suoi spartiti, come St. Louis Blues per esempio, in cui dice: ma io ho inventato il blues, io ho fatto popolarizzato il blues. Morton, che aveva un ego gigantesco, non ci vede più. E manda una lettera di fuoco, prima alla radio e poi alla rivista Down Beat, dicendo: ma come, io sono l'inventore del jazz, io ho portato il blues nel jazz, io ho scritto King Porter Stomp, Wolverine Blues, i grandi capolavori, tutti state ballando al ritmo della mia musica, io sono l'individuo che conta, io ho creato tutto, suscitando un misto di tenerezza e ilarità, perché quest'uomo con questo ego gigantesco osava dire che aveva inventato tutto lui. Come vi ho detto è un'esagerazione, ma come vedete c'era un grano di verità. Questa lettera riporta Morton all'attenzione della stampa, quindi: ma da dove esce questo? Chi è? E addirittura nel 1938 un giovane etnomusicologo di nome Alan Lomax, su suggerimento di un'altra persona, lo invita alla Biblioteca del Congresso a registrare le sue memorie, perché questo uomo può raccontare qualcosa sulle origini della cultura americana del Novecento, cioè sulle origini del jazz a New Orleans. E noi sappiamo che le registrazioni di Morton alla Biblioteca del Congresso sono tra i documenti più preziosi che noi abbiamo sulla storia della musica americana, perché quest'uomo con una memoria formidabile comincia a far rivivere e rinascere tutte le sue memorie, addirittura racconta cosa suonava, chi, nomi, cognomi, stili, ricrea un mondo, senza appunti, senza niente, solo attraverso, stando a un pianoforte con un microfono e raccontando attraverso la memoria. Durante queste registrazioni ovviamente Morton suona anche King Porter Stomp, ha modo di spiegare che importanza ha questo pezzo per l'America di quegli anni che stava ballando, e nel breve tempo che gli rimane, prima che questa ferita lo danneggi gravemente e per morire prematuramente nel 1941, a 51 anni, Morton fa in tempo a registrare ancora una volta nel 1939 King Porter Stomp. La registra in una versione fantastica, molto molto bella, per la Commodore, è una versione piena di gioia, ovviamente lui la suona come lui l'aveva scritta, tra l'altro sappiamo che nel frattempo con l'aiuto di un amico bianco, perché come cittadino, sebbene di pelle molto chiara, ma considerato nero, non aveva alcun tipo di potere, sta cercando di recuperare i diritti dei suoi pezzi, compreso King Porter Stomp, presso la ASCAP, che sarebbe la SIAE americana, che all'epoca non accettava neanche l'iscrizione di musicisti neri, figuriamoci pagargli i diritti. Ma lui non aveva i diritti, perché aveva dato il forfè all'editore, non aveva più nessun tipo di diritto su quel pezzo. Questa battaglia per riconquistare i diritti dei suoi pezzi lui non la vede vinta in vita, ma una parte di questi pezzi viene riconquistata dai suoi amici e dalla famiglia dopo la sua morte. In ogni caso questo non gli impedisce di suonare una delle più belle versioni, più gioiose, più trascinanti, limpide, così come lui l'ha scritta nello spartito originale di King Porter Stomp, come a ripristinare il dettato originale di quel pezzo che l'America sta ballando. Alziamo un po' di mano. estreme elezioni. Con la fine dell'era dello swing, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Morton muore nel 1941, il pezzo cade nel dimenticatoio. Nessuno più lo suona, nessuno più se ne interessa. Era un pezzo per far ballare la gente. Ora la gente balla il rhythm and blues, soprattutto i neri ballano il rhythm and blues, una musica molto più ritmica, che però in realtà affonda le radici in questo swing, shuffle si dice, dell'ultima parte di King Porter Stomp, che Morton aveva già prefigurato nel 1915. In ogni caso il pezzo sparisce dal repertorio del mondo del jazz. Riaffiora occasionalmente, è un mio errore, riaffiora occasionalmente nel 1956 con questo Manhattan Jazz Septet. Ma insomma non è una, ve lo faccio sentire tanto per farvi capire quanto potesse essere smembrato non è una grande esecuzione, però la memoria del pezzo originale di Morton è talmente lontana che del pezzo sapete cosa suonano questo buon gruppo di musicisti arrangiati da Manny Albam? Solo la C, nella A, nella B, solo la C su cui fare gli assoli. Addirittura assurdamente fanno anche la transizione che serve per andare dalla B alla C, ma invece va dalla C alla C, non ha proprio senso. In più questo brano ha uno strano, lo dico ai tecnici qui, magari qualcuno, ha uno strano difetto del nastro che parte molto veloce, poi pian piano rallenta, quindi anche una tonalità strana. Però ve lo faccio sentire, anche se non è, diciamo, un ascolto divertente, dura 2 minuti, ma per farvi capire a che punto di riduzione, di ignorare la natura del pezzo di Morton, si potesse arrivare. Tutti rimescolati. Perché il pezzo venga ripristinato alla sua natura originaria ci vuole una mente molto raffinata. E la mente molto raffinata e Gil Evans, che nel 1958 registra un disco New Bottle Old Wine, come dire, pezzi vecchi in una foggia nuova, dove dentro ci sono pezzi di Big Spider, dei classici del jazz, e Evans riscopre King Porter Stomp di Morton. Evans era un musicista canadese, un arrangiatore, che in quel periodo tra l'altro non se la passava precisamente bene, che era tornato per la verità in, come dire, in primo piano grazie al fatto che stava facendo dei dischi con Miles Davis, come Miles Ahead, di lì a poco Porgy and Bess. E Evans è stato sostanzialmente un autodidatta, cioè ha imparato a scrivere pezzi di jazz trascrivendo i grandi dischi di jazz, Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Jelly Roll Morton, buttandoli giù, su spartito, trascrivendoli nota per nota con l'orecchio formidabile che aveva. Quindi lui non è che ha studiato lo spartito di Morton o ha imparato le cose a scuola. Lui, la sua scuola sono stati i dischi. Quindi lui conosce esattamente ogni nota dei dischi di Morton, dei dischi di Fletcher Anderson. Sa chi e come e perché ha fatto determinate modifiche e decide di scrivere una sua personale rivisitazione di King Porter Stomp, che come vedremo sarà decisiva per la storia di questo pezzo. Ogni versione di King Porter Stomp, come avete visto, contiene molti solisti che si esercitano sul giro del pezzo. In realtà, per questa versione, Evans sceglie un solo solista, che è una nuova stella del sax alto arrivata dalla Florida, che si chiama Julian Adderley, vista la stazza Cannonball, palla di cannone, così amichevolmente naturalmente, sempre. Julian Adderley, che è un solista in quel momento proprio sulla cresta dell'onda, addirittura salutato come il nuovo Charlie Parker, pensate un po'. Alla batteria c'è Art Blakey, che fa un'introduzione, e noi adesso ci ascoltiamo la versione del 58 di Gil Evans, che è straordinariamente bella. Tra le altre cose che Evans fa, poi le vedremo in dettaglio, ripristina finalmente il tema B. Cioè, Evans parte dall'idea originaria di Morton e qui e lì ci aggiunge alcune delle idee di Fletcher Anderson. E in più, come vedremo, anche alcune sue. Questa è la versione complessiva. Tra l'altro, vedete, fa l'ascesa che Anderson, quella ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, che aveva deciso di mettere nella versione del 32, ripristina il tema B, però all'inizio lui fa fare, come nella versione del 32, non del 28, c'è un piccolo errore, l'assolo di A, no, dal 28, sì, ad Adderley, il tema C viene fatto sentire solo più tardi, dopo di nuovo l'assolo di Adderley, e ci sono anche delle nuove variazioni che vedete alla fine. Quindi, come vedete, mescola idee di Morton, come per esempio il tema C1 che non si era più sentito, quello dello stomp, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, quella nota ribattuta che nessuno più aveva suonato, mescolando, come vedete, quindi le carte. L'esecuzione è straordinariamente bella. Art Blakey. Nuova introduzione con Adderley. Transizione. si inventa di nuovi accompagnamenti. Poi il tema. Finalmente ripristinato dal 1915, non veniva più. Aderle sopra. Si inventa delle variazioni. Ultima C. Esempio straordinario di come si possa unire filologia e creatività, rispetto per la storia e innovazione. Perché? Perché Evans sta completamente dentro il dettato di Morton, conosce tutti gli aspetti dell'esecuzione di Anderson e ci mette dentro qualcosa di suo. Per esempio, tratta dalla parabarabarabarabarabara, la transizione, fa un accompagnamento per Adderley. Poi se ne inventa un altro, che è una frase bop, la capacità di unire il bebop con un pezzo scritto nel 1915. Che è bellissima, una frase di Charlie Parker infilata dentro questo pezzo. Ecco, la versione di Evans viene subito riconosciuta come un pezzo, una versione di culto, anche perché ha queste sonorità così che stanno tra l'orchestra sparata e il pastello dei fiati, in un certo senso, come nel tema B, dove sono il clarinetto, il sassofono, la chitarra. Non è una big band tradizionale, come spesso faceva Evans, utilizzava una combinazione non ortodossa di strumenti. Evans doveva essere talmente affezionato a questo pezzo che peraltro riceverà appunto un riconoscimento, come dire, da parte della critica e dei musicisti, come dire, ah che bello, finalmente recuperiamo un pezzo non solo nella sua forma originale ma lo attualizziamo senza tradire il suo spirito originario, che addirittura nel 1975 ne fa una versione dai sapori addirittura fusion, con l'elettronica, il basso elettrico e un'orchestra molto più grande, nel disco There Comes a Time, che è un disco, lasciatemelo dire, veramente eccezionale, che pochi conoscono perché per molto tempo è stato fuori catalogo. Un disco impressionante, dove la parte che era stata di Adderley viene fatta da un giovane sassofonista, poi destinato a diventare una star della fusion, David Sanborn, che qui invece suona diciamo, il sax alto con una grande energia proprio jazz, e vi farei ascoltare subito la versione del 75, che per certi versi è ancora più affascinante, più divertente, più trascinante della versione del 1958. L'ascoltiamo insieme, mescolata a questa grande orchestra ci sono anche sintetizzatori, Evans si era buttato anche nell'elettronica in questo periodo, come molti musicisti, come il suo stesso amico Miles Davis in quegli anni, e ne tira fuori un pezzo ancora più colorato per certi versi, più energico, meno pastello, più energico, ma forse anche più colorato. Questa è la versione, ci sono dei frammenti nuovi, come per esempio quel passaggio di quattro battute in più dove dice nuovo, l'introduzione è diversa e dei brevi passaggi di Sanborn sono lievemente differenti. Questa è la versione del 75. Oh. basso elettrico. La terza C, sentiamo l'accompagnamento. Variazione del 58. Come nel disco di Anderson. Evans praticamente sdogana King Porter Stomp, che entra finalmente nel repertorio del jazz contemporaneo. Ci avviamo alla nostra conclusione, ma ci sono ancora due piccole tappe da fare molto affascinanti. Forse i più accaniti, accesi sostenitori del jazz delle origini sono stati i musicisti dell'avanguardia di Chicago, perché personaggi come Anthony Braxton, Henry Threadgill, Leo Smith, Joseph Jarman, Roscoe Mitchell, Muhal Richard Abrams, più di tutti forse, hanno visto nel jazz delle origini la conferma che c'è una specie di grande musica nera, the great black music la chiamano loro, di un'unica tradizione in cui rhythm and blues, soul, jazz, bebop, ragtime sono tutti parte di una grande famiglia legata alla cultura nera. Quindi per questi musicisti che vogliono rompere con le regole del fare musica tradizionale, affermare di essere parte di una grande tradizione è il modo migliore, come dire, per avere una legittimazione al loro apporto iconoclasta. Ecco che allora nei dischi di Braxton, Roscoe Mitchell, Muhal Richard Abrams, Henry Threadgill appaiono molti pezzi di jazz delle origini e King Porter Stomp è uno di questi. suonati con grande rigore filologico, tra l'altro. Ah no, scusate, salto un attimo. Ok. Con grande rigore filologico. C'è un disco addirittura del trio Air, Henry Threadgill al centro, Fred Hopkins a destra, Steve McCall alla sinistra. C'è un disco, Air Lore, che è tutto dedicato al jazz delle origini. Fanno pezzi di Scott Joplin, diversi pezzi di Morton, tra cui King Porter Stomp. È un trio, sassofono, contrabbasso e batteria. In teoria dovrebbero avere un approccio appunto quasi free, iconoclasta. Sentite come riescono invece a mettere insieme la lettera del pezzo, lo spartito, così come l'abbiamo visto, insieme invece ad un respiro di assoluta libertà. Alziamo un po', grazie. Si può alzare un pochettino, grazie. Questa è la seconda A. Improvvisano. Stavo cercando un modo per concludere questa conferenza, cercandola di connettere anche a Roma, e mi sono imbattuto nel fatto che l'orchestra di San Ra ha suonato al Teatro Giulio Cesare qui a Roma nel marzo dell'80. Perché è importante l'orchestra di San Ra in questo discorso? Perché San Ra, ovvero Herman Blount, personaggio, come vedete, il tastierista alla sinistra, che dirigeva dagli anni 50 un'orchestra che era una specie di comune, che diceva di venire da un altro pianeta, da Saturno. E voi sorriderete, ma San Ra disse: sai, se sei un nero e sei nato in Alabama, forse è meglio pensare che vieni da un altro pianeta. Aveva assaggiato la discriminazione razziale nelle sue forme più violente sulla sua pelle, e l'orchestra era una allegra band che mescolava spettacolo, danze, colori, costumi, come vedete, molto variopinti e trascinanti, e metteva insieme un repertorio che andava dal free jazz più estremo, violento e cacofonico al recupero del jazz delle origini. E sapete perché? Perché Herman Blount, prima di diventare San Ra, era stato l'ultimo pianista dell'ultima orchestra di Fletcher Anderson. E quindi era una diretta connessione con quel mondo. E loro King Porter Stomp lo suonavano. Non so se qualcuno di voi era quella sera a Roma. C'è qualcuno che era in sala quella sera? Sembra di no. E allora vi faccio sentire che cosa hanno suonato. Come hanno suonato King Porter Stomp al Teatro Giulio Cesare. La registrazione è una registrazione di fortuna, che poi è stata pubblicata in un CD pirata, ed è questa. John Gilmore. Thank you. questa versione un po' sgangherata cerca di restituire, come dire, l'eccitazione che doveva esserci, per esempio, nell'orchestra di Fletcher Henderson negli anni 20, quando suonava questo pezzo al Connie's Inn per far ballare le persone. Però non ci dice ancora tutto quello che ci può dire King Porter Stomp, e ce lo dice l'ultimo ascolto. 2 mesi dopo, il pezzo, ancora a Roma, fu suonato al Teatro Argentina da un ensemble messo insieme dal grande pianista di free jazz Alex von Schlippenbach con degli elementi della big band della Rai. Qualcuno c'era? Ma che facevate? Vabbè. 31 maggio 1980, qui la registrazione è molto buona perché poi è uscito un disco ufficiale di von Schlippenbach, di recente ristampato solo in digitale, e Schlippenbach è un musicista, da un lato è un diretto erede di Cecil Taylor nel suo approccio più magmatico alla tastiera, dall'altro è un grande conoscitore del jazz delle origini, è un grande conoscitore di Thelonious Monk. Mi faccio un po' di pubblicità: il 7 febbraio faremo al Teatro Metastasio a Prato un concerto del suo Monk's Casino, che è un progetto dove fanno in quintetto tutti i temi di Monk in una volta sola, e in questo caso mise insieme, fu chiamato dalla big band della Rai a fare un repertorio più classico e tradizionale, e fecero anche King Porter Stomp. Ecco, io vorrei concludere con questo, perché il modo in cui suonano King Porter Stomp, le persone che vedete qui sono sostanzialmente musicisti dell'orchestra della Rai, qualcuno conoscerà anche degli amici qui in mezzo, più alcuni dei musicisti aggiunti a sostegno da Schlippenbach come Gerd Dudek, Bob Stewart e Paula Lovens, che suona Paul Lovens alla batteria, ci danno l'idea del fatto che, come Gil Evans ci insegna, non dobbiamo pensare a quella musica come una musica di un passato finito, di un passato come dire, consegnato lì, messo su un piedistallo, magari considerato qualcosa da onorare e venerare, ma che non ci dice più niente. In realtà la musica di Morton continua a dirci moltissimo, può essere suonata da musicisti italiani, tedeschi, americani, qui tutti mescolati insieme, in una lettura che è al tempo stesso ironica, molto fedele, e forse la più fedele di quelle che abbiamo ascoltato fin qui, anche più di quella di Gil Evans, perché non tiene tanto conto della versione di Evans, ma direttamente dello spartito di Morton. È come dire, un modo sano di leggere la storia e di rapportarci con il passato per ravvivare il presente. Insomma, è il modo migliore davvero di pensare alla storia. Ora che ne sapete abbastanza di King Porter Stomp, potete raccontarlo tornando a casa a tutta la famiglia, facendogli una testa così sul tema A, il tema B e il tema C, vi potete gustare pienamente questa brevissima e strepitosa esecuzione di questo pezzo. Che vi devo dire? Viva Gianni Valmotto, grazie. Grazie.